apparecchi, ma apparecchi a vero, non questi, giustamente, apparecchi CB a vero, che vale tutto, non ne manca niente, cosa pretendiamo? A me non mi interessa molto, è quello che voglio dire, voglio arrivare a quel punto. Quindi cosa rispondo a fare a un apparecchio che ha tanti anni, che cioè, posso prendere un apparecchio nuovo, che se io voglio andare in Ghibe, ci vado lo stesso. Cioè, io la parlo, la faccio da questo presupposto qua, poi se uno gli piace, eccetera, eccetera, lo compra e passa, tutto il discorso. Beh, logico la cosa. 100 teste e 100 capelli di mese, uno da solo all'altro. Anche a te ti piace la cosa così, invece a me anche uno che ci piace gli apparecchi da rematoriale. Guarda, se hai avuto un FT250, un FT101, per dire, avrei speso 200 euro ma sarebbe stato un bel apparecchio. A me piace, io sono appassionato di quella roba e sei appassionato alla roba della 27. Tutto lì, poi ci sono apparecchi dell'ultima generazione, sono digitali, sono tutti i filtri, hanno 100 watt d'uscita e cose del genere. Partono da 25 a 30 megahertz, per dire. Va bene. Non per voi non ce ne stanno. A me invece è una roba completa, da giù fino a su, un domani, che voglio avere un nuovo di pilastro di patentino, a poter andare a comprare un apparecchio 6.000 euro ce l'ho già pronto. Provvisoriamente come avere, per dire, un FM500S 3027, 34 canali. Se voi magari voglio avere, voglio fare le ricordi, mi compro l'altro apparecchio di tasso. Momentaneamente mi va bene così. Ho speso quello che ho speso, le tasiche a 1.500.000. Altri due furono. Ma anche io mi sembra aver speso quasi due. Per quelle di 4.40 allora. E va bene così. Sono appassionato di diverse cose. Quindi ci vogliamo contare di quello che ognuno pensa per la tasca sua e per quello che gli piace. Vabbè, io la penso così, ognuno la pensa come vuole, ma io la penso così. Io non lo compro, perché non interessa, sinceramente, a me. Io voglio modulare con queste apparecchiature qua e basta. Al massimo me ne prendo uno molto, molto bello, molto professionale, tutto qua. Poi alla fine di tutto, quelli lì sono fatti per andare in un certo modo, per andare. Qua si usano perché si usano, però alla fine, se uno ci pensa, non mi vale la pena, dai. Sì, comunque, le PRS, c'è gente... Ah, sicuro, sì, claro. C'è gente che 27... si compra anche apparecchi in VHF, a dire cosa ti vuoi fare l'apparecchio in VHF se non c'è manco un cane, parli da solo con uno, eppure un sacco di gente ce l'ha e se lo compra per ascoltare, pure con gli apparecchi new, un ricevitore, cosa ne va, non ne va nulla, spendi un sacco di soldi per nulla, però c'è una passione e basta. A me, io me l'ho comprato perché mi sono appassionato di questi apparecchi qua, io comprandomi questo ho comprato tutto, non ho speso più neanche una lira, ti giuro, perché non ho fatto più niente, anzi, mi ha regalato cose che non mi sbattono addosso niente. Io mi sono fermato lì, non ho avuto per sapere niente né dei baracchini, né dei 23 canali, dei 40, mi sono pigliato nel 2009, il cavolo, finito così, non ha più nulla, non voglio avere più nient'altro. Ma prima era prima certo, qualche annetto fa avere una cosa del genere era una grandissima cosa. Ma adesso con tutti questi apparecchi nuovi che sono usciti non ha niente a invidiare a uno di quelli, no? Non è che ci sono apparecchi che vanno alla grande come vanno quelli lì, certo quelli lì hanno un'altra timbrica, hanno tutto perché sono apparecchi professionali, ma però alla fin fine non ne vale la pena, dai, non ne vale la pena trattarli in occhio. Alla fin fine stampa, riprendere a tagli, scusa se sono stato un po' un pochino così, ma io non penso non è crede, capito? Io non ho avuto abuso io, e non ho avuto abuso io a tu. Ma io ti per le scuse, non c'è problema. Cappa. Ma io la penso così, secondo me sono un po' sprecati, dai, per qua. Secondo me quelli lì devono fare il suo compito, devono fare, andare in quelle bande là. E qua va bene, va benissimo il baracchino, cioè se ti vuoi mantenere più forte, ti attacchi un bel amplificatore, vamos, va lo stesso me. Io l'ho avuto amplificatore, io che te l'ho regalato, perché l'ho visto. Troppo esempi che furono ne ho fatto di. Guarda, con tutto quello che sto ci usciva, un automobile ci usciva, ti giuro. Spero un sacco di soldi, milioni, no, 100.000 euro, milioni. Mi sono confermato, ho fatto preso quella decisione, boh, Antonio non spende più manco la lira, se la vedi in culo, per la gru, per quello che è, boh, fermo lì, adesso sono a mangiare e basta, io sempre sono a comprarmi a parecchi, cazzavamo io di fame, è vera cosa. No, la passione, boh, si ferma così, più di quel tanto sono soldi sprecati, tanto per rimanere femminili a parecchi conviene il compagno. Pochi, ma li utilizzi, tutto lì. Caffa. Ma proprio per spendere qualche soldo, come ne comprarne uno buono e basta. È finita lì. E quello sì, è quello che ha fatto anche l'Altarino. Pochi ma buoni, li utilizza. O mi sbaglio l'Altarino. Ma solo che a noi ci piace trovare uno, ma è normale, pure noi siamo così, ci piace trovare l'altro, ci piace usarne un altro, sempre per avere esperienza, anche così, però alla fine se ci pensi, dice, madonna, ma lo sai più comparato, faccio sempre chi, sempre che d'altro. Alla fine se fai meglio non fare i prezzi, perché se fai, un prezzo guai, cioè è proprio perché ci piace avere l'esperienza di usarli e tutto quanto, avere le funzionalità di uno e funzionare dell'altro. Allora chi ne bugi due o tre andano bene, solo che siamo fatti così molte volte. Ci piace di pigliare un'altra ancora, provarne un'altra ancora, siamo sempre così. Come le auto là, ogni tanto se ne compra una, se lo usa 6 mesi poi si molla. Siamo fatti così tutti gli altri. Penso che sia anche giusto, dai. Ogni tanto io vado a provare che canna. Ne provo qualcuna, poi la mollo, un mese o 2 mesi poi ce la mando. Ah! Che c'è stato che? Ma sei disgraziato! Ragazzo canale! Ma se non fai così! Mi farò alla grande! Mamma mia! Allora stai cercando il pedizoma leopardato, così è Natalia! Ma questi che di compagnia non mi ti puoi vincere lì, ti bacca i dai! Sono gallo! E come ti diciamo, Maurizio? Non va bene, uno tipo gigolo. Ti farà sicuro di te la mortarella e vamos. Sì, arrivi esattamente, super dotato, tubo 2001, cerca antenna femminile, di lunga durata. Noi siamo ridendo, siamo, però c'è gente che sta facendo veramente i soldi. Magari un marito, cosa ne so, un compagno, non ve la fate, gli date 300 euro, ma su che andiamo, e lui sta bene. Scappa di rocero. Ma vi gommi però, se no io... Scappa. So, comunque so che c'è un po' di gente che è così... Se senza lavoro si dedica a fare queste cose qua. Ma devo essere ben attrezzato, se no so che altri passi un bel... Lucia, Natali. Dai, Natali, facci sognare, Natali. Benissimo. Facci sognare. Altro il mio signor Biagio, non ho più mondo. E gaffa. E se ve la fai, pensa, se ve la fai a fartene due, pensa cosa, cioè sono con due, sono 1.000 euro, cioè se vi riesce a aperta sono 1.500 euro, in una distanza vannuta, male, del tipo di fatti. Io non ho mai detto a me bisogna che sia 2.000. Papà, comunque, chi vorrebbe interessare metta l'annuncio. Almeno qualche cosa si guadagna. Lo metto io. Io la metto. Non ci siete buoni a fare quelle cose, no? A fa metterlo sull'occasione, ti fa la casella postale, ti fa la chitarra, il buono gozzo, su che andiamo? Su che andiamo? Troppi suggerimenti vi sto dando. Già, me, quando ci dai quei suggerimenti lì, siamo quelli che... Boh, chi ce lo viagra, me? Natali! No, non ce n'è bisogno, no. Non ce n'è bisogno, tutto naturale. Antonio, un brigantino mi sa a me. Io faccio anche vista a domicilio per quelle. Comunque, non sarebbe una cattiveria, cosa ti me la futti? Non si era che fa. Ci faccia un pochettino di cosa. Non sarebbe una cattiveria, Adesso quando a travagliare. Antonio, stai impassibile che ci sono troppe orecchie. Cappa, a me non me la futti niente. Io lo dico perché secondo me è la cosa più giusta. Cappa. Suga? Arridino. Oh, che bruppa. Ragazzi, c'è così, cazzo. No, Iuia. Su che si rulla. A tu. Allora sai come dico la sedoli? Mencia, vivo, mencia. Cappa. Fa per dare di che nemica. Eia, ma secondo me in giro di un anno ti va la villa. Ma bisogna vedere come ti riduci però, eh. Ma sto sbagliando, Natali. Detto, bisogna vedere come si riduce una persona in giro di un anno, Tre o quattro al di... E come ti ho venuta via, figlio di cucini? Scappa. 3-4 di una ogni a due di. Paga, passate sotto il fondo lì, già ce n'è poco, 5 contro 1 adesso, tro. Su che andiamo? Su che andiamo? Yeah. ogni casino, ce l'abbiamo fatto a lo zicco guai. Chiappa! Qualcuno ci pensi bene, ci pensi bene a qualcuno. Sarebbe l'ultima occasione. Domani metto l'annuncio. Oppure la metto, eh? Natalino la mette, io metto l'annuncio e Natalino la mette, eh. Caffa, ma hai detto che fai pure Subaru? Subaru? Subaru, la chat. Ti preso che ti annunci strane, cazzo. Ti pagherò anche il viaggio. Tutti andiamo, ciao doppio tu, ben sentito. Alla sarda, buonasera gente. Buonasera, sera. Come mai siete in codesto canale? Noi siamo sempre in codesto canale, Gambio. Ma che dove dovevamo essere? Che canale siete? Sono attarito. Oddio, canale d'amore. Tu, il canale dell'amore. Tutti andiamo, Gianni, dopo di lui, con te Gianni Caldo, oltre al perizoma. Gianni, guarda che non si, non mi toccate 10 kHz. Oh, toccate 10 kg. Ah, sono sul 10, anch'io stavo scherzando. Ah, chi è che mi sovramuta? Che? Io, ci ho salvato dal credo. Ma l'ha detto sì. Oh, cazzo, ma l'ha detto me. Adesso faccio schiattare tutti i giorni, adesso vai a camminare alle 5, lo faccio schiattare. All'ingresso di Marco Mer. Ma l'ha detto. Schiattare bene cosa devi fare, vai a Fusaro, ti compri una ringolemme, le fai due belle staffe, l'attacchi, lì, in quel punto, allora sì che comincia a rollare forte. Ai ai ai ai ai, tutti sopramodulando dove state, ma perché? C'è una cosa buona, a dire, cazzo le u. Dimmi Gianni. Non sai cosa devi fare. Non lo passi, non sei lì vicino. Gianni, dimmi tutto. Fai due belle staffe, l'attacchi. Gianni, dimmi tutto. Schiattare. Gianni. Eia. Dimmi. Io non ho chiamato a nessuno, sono zitto perché... Antonio... Qua è passato Antonio, e ho capito tutto, non so se poi lì è passato. Lì c'è Pomponio, mi maledetto. Aspettate un attimo, sto dicendo una cosa a Pomponio. Pomponio, non sai cosa fai per farli schiattare bene. Vai a Fusaro, ti compri una ringolemma, la prendi, la monti su quel terrazzino lì. Allora come li fai schiattare? Li metti 50 watt sopra e li vedi schiattando. Ah, con 50 watt però. Ah, non sai cosa fare stasera con 35 euro della Ringo. Invito a te a Falchetto con 35 euro di bistecca e mi diverto. Perché no? Io l'avrei acquistata, da lì avrei sparato forte. Ma forse però. Ah, gli sono interessati i bistecchi, non la Ringo, i bistecchi li interessati. Allora statene con i bistecchi, allora non puoi far schiattare la gente. Già basta questo uscendo, basta e avanza, qua. Basta la tubo di 2001, senza da qua, adesso mi busco la partita di Grand Prix e sono a posto. Se no, se non è quella una partita di A27L, ti metto tre variati che ho io della Super League, tipo se ho fatto la 50 per casa. Non ho spendo altri soldi, no, cioè, io la faccio spendere soldi così, no, me li mangio. Ho 350 sei quanti bistecchi. Gianni, un attimo di fianco la batteria. E poi su. Passato, lo passo. Già lo passi, fa che. Allora, perché mi sono avuto? Sarei morto. nulla. Fa schiattare, non puoi far schiattare. Ma che schiattare pure a te. E tu la devi schiattare a me. Vabbè, cioè, guarda, poi scatti venire dove hai fatto nuovo, non cosa avrei fatto, ma ci sono quattro abbonanzi. Oh, e Domenico! Papa, dai, via con me, dai, che io mi preparo, dopo ti faccio schiattare dalla moto. Cappa, cappa. Ha detto Domenico! Domenico! Ciao, Gippone, saluto il sentito. Vai, lo dica Gippone, dove sei da Gippone io? Gippone, lo ti sento! Capo cos'è l'occhio, ma era giusto. C'è il cane, c'è sbagliato. Ah, è un cane che fa gente. E ti senti, fa un raggio, fa un raggio. Avvedomi. Scusi, dite che è bugiardo, Antonello. Mi ha sentito gente evidentemente sotto, sta sbagliando per quello. Si incamera la letto, sto palletto, se vado a dirmi musicheggia, è a posto mio, Scusi! Che ne vedo mai già, sto chiamando. Mi capisco che c'è venuto. Scusi, stai qua, nella pappa, Scusi! Devo dirgli che devi dare acqua. Acqua, Scusi! Scusi, da voi l'acqua! Occhio che morsicca le labbra quel cane. Cucina M. Cucicucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucco. Attali c'era quello di Paola, c'aveva il gatto e il cane. E se non li avessi visti non ci avrei creduto, si giocavano in pari. Il gatto saliva sul cane e il cane lo trasportava, poi il cane saliva sul gatto e lo trasportava il gatto. Stava a cambio facendo. Ma erano piccoli assieme per fare così. Ma sapete quella barzelletta di quel bambino che ha visto... Aspetta, ma devo ricordare prima. Capaca. Va bene, sto uscendo con voi. Se non conto una linea di barzelletta, ma non è che non è che gli mette l'altro, dice lui con il cazzo dice vicino, dice il camionetto, dice di fronte a me, gli nota, dice, tu hai disoccupato, detto con l'ascensore, ho fatto l'opera disoccupato a fianco. E tu mi sembra visto, dice bianco come un insomma, dice, ha preso che mi sto toccando le palle io. Ma me la sono ricordata, questo bambino che vede due cani che stanno facendo l'amore, no? E gli ha detto, no, che cosa stanno facendo quei cani? E vedi, il cane di dietro è ferito, e l'altro quello che c'è sotto lo sta trasportando. E cioè, allora aveva ragione papà quando dice che anche quando sei bravo e da una mano la prendi sempre dietro. No, mi sono proprio durare con po', maledetto. Ancora non l'ho fatto, forse non è 20 cipolli, detto che siamo venuto dai chiletto. Maledetto. Ma quante volte c'hai, fa il che? Tu sei il nostro scendo liscio. Perché? Sì. Ah, liscio. E ci mancherebbe altro. No, me non sei nel primo né l'ultimo, ma... Cava. Scendo liscio, stai scendo bene. No, liscio. Solo che c'è quel malefico di Pomponio che sta sovramodulando. Ehi, come fa a sovramodularti? Qua non passa Pomponio, se tu lo parli sopra. Me l'ha detto. Meno che attacchi. Ma io sono liscio. Poi bello già che lo sono modulato fuori ieri. No, a muro, se lo sono modulato come nulla. E l'ho perso proprio. Sì, assolutamente, non dica che non ci può la pensione, è vero. Vai, che non mi sono più muto che tu a me, vai tranquillo. Mi ha salvato tranquillo, era. La ci può fare un mente lunga, l'ho ieri. e te lo guardo che però che tu dai risposte di potere, te lo passi, un po' come te lo passi, mi ha detto. Ah, che te la vedi nel giro, vai. Antonio. No, Antonio Bobolino, non c'è. Comunque, visto che io ho ragione, che la Turbo 2001 pompa forte, pompa 4 ma 5 ottavi, se è messa bene, però deve avere tutto quanto, anche la carica di sotto, tutto quanto, lui ne ha messo una parte solo. E che l'ha messo il radiale, l'ha messo anche lui, il radiale l'ha messo con il disgraziato lui. No, ma anche da sola va bene, anche da sola, basta che tu le metti a tutto completo anche il moto di sotto. E lo vedi come ti para, a sughiccioca, che se va bene da terra, a Turbo 2001, e figurati dal tetto quanto va. Ma c'è il discorso che puoi imbattere quanto vuoi, però ci sono momenti che tu non ricevi. Da Borova, Vulcano, lo sentiva al carissimo Pomponio, ma Pomponio non riceveva, è tutto qua. Se no, però vai diritto, letto, precisa. Pomponio ha l'impianto fatto così, a fin fru. Però io dalla macchina già ricevo, non ti preoccupare. La macchina ricevi? Bisogna vedere fino a dove ricevi con la macchina. Se dove imbatte l'antenna, è normale quello lì, no. Però a me poche volte mi hanno detto non ti sento dalla macchina. Va bene, carissimi. Guarda, quell'antenna è come avere abbiamo 27 senza radiali. Se tu a quell'antenna che c'è adesso, le stacche radiali, esce quanto va un quarto d'onda. Se tu li metti radiali, è logico che ricevi. Capito? Io radiali ne ho solamente uno. Se io gli metto una base di campelli, gli metto quattro radiali qua, a Uria se ricevo. Io uso lo spray per ricevere, funziona benissimo, è anche antirrosso, buon pomeriggio. Quella se tu la fai con un bel pezzo di latta per fare il piano riflettente e una staffa L con la lamiera attaccata sopra di quella bella spessa, lo vedi come va, solo che poi la lamiera si arrugginisce, è quello lì che c'è di brutto. E se la canonzione è mezza cappotta, me la attacco sopra al tetto qua. È così. No, a parte gli scherzi. Dovresti trovare un bel pezzo di sai che cosa? Di acciaio, di alluminio. Alluminio di quello temperato. Che così non arrugginisce. Un bel pezzo, lo vedi quanti anda. Questa antenna è un mostro. Al contrario di quello che stai dicendo Falchetto che non riceve, che non riceve. A buon uso io avevo avuto un'antenna così in macchina. Bisogna usare lo spray ricevente che funziona meglio, buon pomeriggio, io uso quello lì. Cappa, ben sentito. Ciao Massimiliano, ben sentito anche a te. Ma cappa, quella è un'antenna scandalosa, però come dicevi la trasmissione ne ha e ne avanza pure. Buonasera signor Massimiliano, cosa ci racconta di bello? Nulla, ti ho acceso e vi stavo ascoltando. Più radiali ci sono meglio è, i cosiddetti contrappesi. Io ne so qualche cosa, perché ce l'ho sulla canna da pesca, quella che si vede quando passate. Lì praticamente ci sono, ho fatto più contrappesi possibili immaginabili, di pari lunghezza, perché vabbè la uso su tutte le bande, ma lì basta fare più contrappesi. Volendo, quando sia possibile, si usa una rete, una griglia messa sotto, e ti fa la piano di terra, quello è il massimo. Il migliore sarebbe una piastra ramata grande, in modo che si abbia un quarto d'onda sugli 11 metri, però va bene anche una rete, quelle griglie, diciamo, non troppo fitte ma neanche troppo larghe, e va benissimo come piano di massa virtuale, capite? Tutto là. Poi se non si può basta far scendere dei cavi, come un cavo elettrico da due e mezzo, e si tagliano spezzoni da un quarto d'onda, più se ne mettono meglio è, sotto chi tocca. Massimiliano Archimede, buon pomeriggio a tutti. Sono un po' stanco perché sono fieri là dalle 5. Sotto chi tocca? K, Massimiliano, di nuovo pronto al cambio, saluti. Niente, beh, in effetti così, dai. In effetti bisogna sempre vedere sia i trasmettiti, quando si trasmette e ricezione, tutte e due le cose bisogna vedere. Sì, ma il discorso dell'antenna è quello lì, non è che bisogna andare tanto lontani, Sì, cioè, l'elemento radiante, nei nostri casi la verticale, e poi ci sono i radiali che sono, che simulano l'impianto di terra, cioè la terra virtuale sarebbe. Serve per irradiare e ti aiuta anche a ricevere. Poi più ce n'è meglio adesso, dove l'aspetto lì. Addirittura ci sono molte antenne nel campo radiomateriale, ma si potrebbe fare anche nel campo, diciamo, degli 11 metri, dove si mette un picchetto a terra appositamente per avere la maggior massa possibile sotto quell'aspetto lì. Naturalmente l'antenna deve stare vicino a, diciamo, al terreno, e non ci deve essere altro sotto quell'aspetto lì. Allora, il mondo delle antenne è vasto e vario, ce ne sono libri interi, capito? Di vario genere, di varia cosa. Diciamo che nel nostro campo, parlando dei 15 metri, che si usano normalmente delle verticali, che sono quelle, diciamo, a noi consentite, il discorso è avere una buona massa radiante, che sarebbe lo stilo verticale, che è quello che irradia, e avere un buon contrappeso, che sono i radiali, perché l'antenna è fatta sempre da due parti: la parte, diciamo, polo caldo, e la parte fredda, che serve polo freddo, cioè positivo e negativo, proprio dandola così a terra il discorso. Perciò faccio l'esempio: se l'onda intera sono 15 metri canonici teorici, e deve avere anche dall'altra parte come elemento negativo per controbilanciare, infatti si chiamano contrappesi proprio quel motivo lì, per controbilanciare l'elemento radiante. Scusate se l'ho fatta lunga e non volevo fare il professore, mi è scappata. A te, Gianni. Oh, Massimia, è sempre bene, accetta, a me interessa sapere sempre qualcosa in più. Comunque io la domanda che ti voglio fare è questa: tu hai una Ringo, quella radiale di ricezione non è, da che cosa riceve la Ringo? Ah, il discorso lì che in realtà l'impianto di, diciamo, la parte mancante è fatta con una bobina messa a terra, tutto lì, capito? Infatti la resa non è eccellente rispetto a altre antenne che hanno l'impianto di, cioè hanno la struttura di radiali, o piuttosto che la massa virtuale, viene fatta con una bobina messa verso terra, verso negativo, e quello lì, diciamo, che sospirisce al discorso del negativo. Infatti c'ha la bobina con una sorta di gamma match, così chiamato, con un filo che viene spostato sulla bobina per trovare l'accordo giusto. Ma ripeto, se quell'antenna fosse stata prevista di radiali, avrebbe avuto anzi una resa maggiore, anche perché è mezz'onda rispetto alla frequenza utilizzata. Io l'ho provata un po' ovunque, anche in 7 MHz, in 10, in 28 MHz, cioè va, non è che. Però la resa è quella che è, cioè me ne rendo conto, come la canna pesa che ho, che sono 12 metri e rotti, così uno potrebbe dire, ma è più lunga e dovrebbe andare meglio, invece va peggio, va, per il mio motivo che sono fuori dai rapporti della frequenza utilizzata, sono fuori, non mi fa neanche un'onda intera, cioè fa un'onda intera in più perché sono 12 metri e mezzo. Ma non ho i radiali tagliati a, diciamo, a misura per l'onda utilizzata, l'onda utilizzata, perciò la resa è minore rispetto alla Ringo che ho. Però la Ringo, per sopperire a quel problema, c'è una bobina di cortocircuito, diciamo, che mi sopperisce a quello che è il discorso dei radiali. Quanti tipi di guadagno c'ha la RIC? Ma non mi ricordo quanta roba è. Comunque, anche bisogna fare attenzione anche con il discorso di BD guadagno. Si sono sempre calcolati al dipolo isotropico. E molte volte sembra che abbia chissà quale guadagno, poi alla fine non ne abbiamo. Poi ci sono tante variabili, come montata, dove montata, capo utilizzata e tutto quanto. Però cioè, se non ricordo male dovrebbe essere intorno ai 3 dB, 4 dB, se non ricordo male dovrei andare a controllare rispetto al dipolo isotropico. Sì, già. Serena. E vedi, Massimiliano sta dicendo che la resa non è che sia favore, non è molto molto buona, diciamo è scarsina. Massimiliano ce l'ha sotto, Massimiliano la conosce. Vabbè, ha ragione Massimiliano, però non può essere eccellente come Arrese. Confronto per esempio a Mantova 1, diciamo così, che 5 a parte c'è anche il piano di massa. Ma dipende anche comunque dove la metti, Certo Massimiliano la usa solo per lavoro, non serve solo per provare gli apparecchi e queste cose qua, non penso che la usi per questione di coso, di modulazione. Lì a lui gli va bene, non è che tanto serve solo per provare gli apparecchi. Ma dico, in lontananza l'hai mai provata Massimiliano? No, guarda, sinceramente non l'ho provata. Ciao Mattarino. Cioè, come hai detto tu, io ce l'ho, nel laboratorio ho qua una qua a casa, ma il laboratorio la uso per fare le prove sugli apparati, va bene anche in 10 metri, perché tutto sommato lavora bene anche in 10 metri. Però a me mi serve tutto sommato per fare delle prove. Qua a casa l'ho montata perché ne avevo comprate due e l'avevo presa giusto per parlare qua con voi, ma giusto per avere una tema dedicata per gli unicimenti tutto là. Però si stavo guardando adesso nel catalogo e viene data per CDB di guadagno, ma sinceramente CDB non ce l'ha di guadagno per l'antenna, anche perché come è strutturata e come è conformata. Se si va a leggere quelli che sono, tra virgolette, la Bibbia dell'installazione dell'antenne, quella che riguarda il discorso dell'antenne, la migliore installazione è sempre quella dedicata a un'antenna, per dire, a un'intera montata a almeno a un quarto di lambda rispetto alla frequenza utilizzata. Se poi se abbiamo un'intera ancora meglio, ma molte volte è impossibile. Prova a immaginare un'antenna per i 40, per gli 80 metri, sarebbe una cosa assurda avere 80 metri di elemento radiante, 80 metri di contrappeso e montata, facciamo anche un quarto d'onda, che 80 sono diviso 4, sono 20 metri da terra, insomma comincia a essere difficile la cosa. Allora, si hanno delle soluzioni diverse, così anche nell'ambito della banda cittadina, sugli 11 metri, sarebbe bello montarla a 11 metri d'altezza come antenna e avere una direttiva di 11 metri come lambda, e andrebbe alla grande, però non è possibile, innanzitutto che la normativa impedisce di utilizzare direttive ma ci vengono verticali. E sulle verticali abbiamo già un piano di terra, a quel punto lì basta un quarto d'onda di 11 metri, che sono 2,5 metri dal suolo, e siamo a posto, ecco. Però la verticale, per dire, ha altre prerogative e sotto certi aspetti altri contro, infatti le rese non sono mai rispetto a quella che è la direttiva, perché dirige, come dice il nome stesso, a una certa direzione, a un guadagno estremamente superiore. Infatti chi nei amatoriali, nella fattispecie di direttive, siano direttive grandi, enormi, ma non per avere chissà quale antennone, ma per avere la possibilità di captare diciamo quei microsegnali e amplificarli il più possibile con il discorso della direttiva, perché la direttiva non tende altro che amplificare il segnale con gli elementi passivi, con i vari direttori così chiamati. bianco da parte mia. Buonasera. Buonasera anche a lì. Bianco, Gianni del Perù, non mi ha risposto nessuno. Ho capito, Falchitto. Ma bianco o nero? No, bianco vado a fare la commissione. Ci ascoltiamo dopo, dai. Ciao. Ciao, ciao, Falchitto, ci sentiamo dopo allora. Avanti, Lucrezio. Buonasera a tutti. Ma il tempo si sfera. Vecchia Romagna di Catanella, il brand che crea un'atmosfera. E infatti ha ragione Massimiliano per l'appare delle antenne. Quelle direttive servono per sentire, non tanto per trasmettere, perché se tu non senti non puoi trasmettere. Ma se dice Natalio che può comare, può comare sarai tu e chi non te lo dice. Ciao Luca. Il Massimo e poi Emiliano. Vabbè. Ogni antenna la sua resa, cappa. Poi dipende l'antenna. Io ho avuto la chiave 7L. E ti dico che era buona come antenna. Mi vicino al cippo il piede femmina dove attacchi il piede. E me ne sono il campo in terra da quell'antenna. Figurati. E poi ho girato la parte della giornata, ma come domani è Mercoli? Ma se ci vuole dire.